Non si scorda mai la prima volta, ma dopo anni sotto spirito, storta dopo storta, ho dimenticato anche la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ma tanto non importa, perché per me è presente che conta. Ogni goccia dissolve gli errori in memoria, così facendo non dovrei desiderare di poter guidare una DeLorean per tornare indietro nel tempo. E penso che pure in sto viaggio col culo che ho mi sarei perso peggio. Posto di blocco, ritiro di patente del mezzo, quindi tutti in piedi, campare. Si scaldano bicchieri come katane di vecchi samurai, per ogni compagno un boccale in alto, urliamo contro i guai. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Purifica lo spirito, che segreti non ne ho. Chino la testa e alzo il calice come il prete a messa. Ro blasfemo intanto, santifico ogni festa con flebo di buon vino, ma non di vin santo. Senti il gusto divino, celestiale, ultraterreno, come un forte veleno dall'effetto curativo. E quando sono troppo stanco stappo una bottiglia e offro a chi mi accanto, e per incanto parte il canto. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Insieme canteremo, spirito salvaci tu. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu. Tutti insieme canteremo, spirito salvaci tu.